Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Stefan Rubner, il legno da tre generazioni, di Alessandra Scaglioni. La storia inizia praticamente col nonno che fonda una segheria in un piccolo paese in Alto Adige e comincia a tagliare i tronchi che sono del posto e comincia a lavorarli e di fare prodotti in legno, tavole ed altre cose. La storia d'impresa di questa puntata è quella della famiglia Rubner. L'inizio è nel 1926 a Chienes, villaggio nel verde della Valpusteria. Dalla segheria del nonno, Josef Rubner prende il via quella che diventerà una delle più importanti aziende italiane nel settore della lavorazione del legno e nella costruzione di edifici in legno, presente oggi in tutta Europa. Sono i figli di Josef a far partire l'attività imprenditoriale, che in un primo tempo è quella del commercio del legname. Inizia con i figli, che praticamente negli anni 60, fine 50, iniziano a lavorare cosa hanno imparato dal papà, praticamente, e vanno fuori. C'è il figlio più grande che soprattutto va in Austria a comprare legname e il secondo figlio che va a Cremona a viverci con la famiglia a rivendere il materiale. Praticamente nasce più come commercio di legnami e dopo la storia vera e propria inizia con la produzione di case in legno, inizio degli anni 60 poi. È il vero primo prodotto della Rubner. E così arriva la commercializzazione delle case in legno Rubner. Praticamente sono i tre fratelli, uno più tecnologico, l'altro più sugli acquisti e il terzo veramente forte nella commercializzazione e nell'organizzare l'azienda. Hanno una gran voglia di fare qualcosa e conoscendo il legno, conoscendo un po' i prodotti della nostra zona, questa tipica casa tirolese tipologia blockhouse che già da centinaia di anni viene prodotta in questo modo nella zona alpina, studiano, la modernizzano e trovano un modo di produrla per fare dei quantitativi discreti per poterla commercializzare sul territorio italiano soprattutto. Il mercato è prevalentemente legato al nord Italia. Le costruzioni in legno vengono considerate principalmente come seconda casa, ma non ci vorrà molto perché la sensibilità muti e il business si allarghi. Anche la casa si sviluppa e diventa casa per prima abitazione, si diventa più grande, diventa più tecnologica. La vendiamo poi anche in Austria e Germania, soprattutto negli anni 80-90. Abbiamo venduto grandi numeri in questi due paesi, Svizzera, un po' la Francia e così via. La crescita riguarda sia l'Italia che i principali paesi europei e soprattutto il completamento di una filiera che prevede la commercializzazione sia di prodotti finiti che di semilavorati. Oggi è arrivata la terza generazione. I fratelli Stefan, Peter e Joachim, a cui si affianca lo zio Alfred Rubner. All'inizio, questa è la storia di successo dei miei zii e di mio padre, che loro hanno avuto, diciamo, il feeling giusto per le aziende. Loro hanno comprato molto delle aziende in difficoltà, le hanno ristrutturate e ognuna per sé è diventata una storia di successo. Noi, come quando noi abbiamo iniziato il nostro lavoro, abbiamo organizzato di più l'azienda e abbiamo un po' organizzato in questi settori strategici e portiamo insieme un po' i marchi che lavorano dei mercati specifici. La nostra strategia adesso è di crescere in ogni settore, certamente allargando la nostra produzione, però anche di acquisire altre aziende e anche di fondare nuove aziende, soprattutto per la vendita su altri mercati. Oggi Rubner è un gruppo complesso con 32 aziende che lavorano in diversi settori strategici legati alla materia prima, il legno, con una filiera produttiva verticale che parte dai segati e dai pannelli in legno massiccio, dalle travi e strutture in lamellare, per arrivare alle case private, agli edifici pubblici, alle strutture commerciali, fino alle opere di ingegneria civile. Lavoriamo in diversi settori strategici, sempre nel settore del legno. Con la storia della casa abbiamo anche migliorato la filiera produttiva e l'abbiamo verticalizzata. Così col tempo abbiamo cominciato a fare travi lamellari, poi finestre, porte e semi lavorati in legno fino alla segheria praticamente. Partiamo lì dalla segheria e oggi praticamente quasi tutti i prodotti che sono dentro nella casa vengono col marchio Rubner e li vendiamo poi nella casa finita. Questi, per esempio i semi lavorati, li abbiamo trovato però anche un altro mercato. Per esempio i travi lamellari che facciamo in Germania, li vendiamo solo al 10% con le nostre case, con i nostri prodotti. Il 90% lo vendiamo sul mercato a terzi. Il fatturato è di 316 milioni di euro, con 1.440 dipendenti tra Italia, Austria e Germania. Il 75-80% del fatturato viene dal mercato italiano, il resto principalmente dall'Europa. Le prospettive di sviluppo maggiori sono verso la Francia. Gran parte vendiamo in Italia, Austria, Svizzera, Germania, però adesso abbiamo anche trovato il mercato europeo, dove vendiamo molto in Francia, Spagna, Inghilterra. E ogni tanto si vende anche qualcosa fuori, un po' Sud America, qualcosa in Cina, qualcosa in Sud Corea, Caraibi. Ogni tanto c'è un prodotto che si vende lì. Al momento ci focussiamo soprattutto sul mercato francese. Lì abbiamo dei progetti molto grandi, vediamo un grande futuro su questo mercato. Questo sarà il nostro terzo mercato, dopo quello italiano e tedesco-austriaco, che vorremmo praticamente diventare leader in questo mercato. E anche la materia prima, il legno, proviene dall'Europa. La gran parte della nostra materia prima viene dalle Alpi, praticamente Germania, Austria, dove ci sono le segherie che ci forniscono l'abete soprattutto per i nostri prodotti. Una segheria l'abbiamo noi stessi, è in Stiria, in Austria, che fornisce molto del nostro materiale, e una parte del nostro materiale viene anche dalla Svezia, Finlandia, soprattutto per la nostra produzione in Germania. La crisi ha fatto sentire qualche effetto, ma non ha inciso sullo sviluppo dell'azienda. La cresciuta sensibilità ai temi dell'ambiente ha rafforzato un business che punta su un materiale naturale e su costruzioni ecosostenibili. Siamo passati molto bene, sicuramente c'è il vantaggio del nostro materiale, la materia legno che ha una rinascita, chiamiamola così, che soprattutto in Sud Europa questo materiale che era già una volta molto importante per l'edilizia, poi è stata un po' dimenticata. Oggi, anche con le nuove tecnologie, abbiamo di nuovo un materiale molto moderno, molto sofisticato, e riusciamo a fare delle cose veramente di grandissima, di altissima qualità. Così siamo riusciti a passare questa crisi quasi senza danni, sempre in crescita, perché il nostro mercato è di nicchia, però di nuovo diventa più moderno, è il materiale ecologico, tutto quanto. Questo ci ha aiutato molto. E poi eravamo molto preparati come azienda, avevamo grandi cambiamenti, eravamo soprattutto col cambio generazionale, eravamo un'azienda in modernizzazione, e questo era un po' già di cultura con noi. Così nel 2008-2009 eravamo preparati e pronti per anche cambiare diverse strutture e per affrontare meglio i problemi che ci sono, perché anche dei problemi abbiamo sofferto. Pagamenti, queste cose sono diventate più difficili, e così le abbiamo praticamente sentite, la crisi. Il cambio generazionale è avvenuto tra il 2004 e il 2005, quando è subentrata alla guida dell'azienda la nuova generazione della famiglia, affiancata dal management. Il cambio generazionale è il momento critico di tutte le aziende familiari. Noi abbiamo la fortuna che questo cambio generazionale è già successo. Era 7 anni fa, ormai nel 2004, noi abbiamo superato questo periodo e abbiamo anche superato il periodo critico dopo. Siamo in piena crescita, siamo ben organizzati, abbiamo la fortuna che questo cambio generazionale è già successo, era 7 anni fa, ormai nel 2004, noi abbiamo superato questo periodo e abbiamo anche superato il periodo critico dopo. Siamo in piena crescita, siamo ben organizzati, perciò per noi non si pone questo problema per i prossimi 15-20 anni, se non succede qualcosa di grave, certamente, però abbiamo già organizzato, ci sono già i figli anche dei miei cugini, perché io sono il più giovane di tutti, che sono in arrivo, e cerchiamo, puntiamo soprattutto anche sulla formazione dei nostri giovani, che però la nostra azienda ormai abbiamo la strategia di avere membri di famiglia, però anche management forte da fuori. Perciò questo collegamento deve garantire un futuro per l'azienda. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.